Io quando non so la risposta a una domanda, oppure ho bisogno di conferme, cerco dei segni nel mondo che mi circonda. Tipo, quando da bambino dicevo, se segno questo gol, l'Inter vince il campionato. Io segnavo sempre il gol, però l'Inter non vinceva mai. Eppure ci ho sempre creduto ai segni. E tutt'oggi li cerco. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16 e 7 minuti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Gli unici segni che mi hanno veramente insegnato a leggere sono quelli del cielo. Parlo di meteorologia, non di divino. Purtroppo gli insegnamenti non sono andati proprio a buon fine, però qualche infarinatura nella lettura dei segni che arrivano dalle nubi, dal vento oppure dai colori del cielo. Ecco, qualche infarinatura mi è rimasta. Per cui ogni tanto faccio l'esperto, no? Con gli amici, quelli che ne sanno poco, e dico cose tipo, guarda, vedi come si vede bene l'orizzonte? Vedi quelle nube alte sul cielo azzurro a forma di ricciolo? Sembrano ferme? Perfetto, non ci sono problemi. Continuiamo a pescare tranquillamente. Oppure robe tipo, visto come inizia a scoprirsi il cielo di nubi? Guarda l'orizzonte, vedi com'è nero? Sarà meglio rientrare che comincia a piovere. Ecco, a parte che non ci vuole un genio. Però questi sono dei segni metafisici. No, sono concretissimi questi segni. Ogni tanto però nella nostra vita succedono delle cose piccole, che alcuni riescono a leggere come segni e altri no. Ecco, io sono tra quelli che no. Però quanti di voi hanno letto, ad esempio, lo smarrimento dell'anello regalato dal partner come il segno della fine di una storia? Oppure da un paio di calze smagliate avete capito che la serata sarebbe stata disastrosa? Poi c'è chi dice che se pensi che una cosa possa andare male, quella andrà sicuramente male. Però qui si tratta di un'altra cosa, si tratta di immaginare che la nostra vita sia una mappa su cui ci sono segnati dei percorsi. Ogni tanto quei percorsi si rendono visibili, sotto forma di piccoli segnali quotidiani. Io non lo so se tutto questo abbia un senso oppure no, se sia vero o meno. Se però vi è capitato di interpretare un piccolo segno e di averlo interpretato bene, io sono qui. Di solito capita quando dobbiamo prendere una decisione, cioè ad esempio quando dobbiamo decidere se dire un sì o un no a una risposta, a una domanda, perdonatemi, o a una proposta di lavoro, o a una persona che vuole avere una risposta da noi, che sia sì o no, o che sia anche più argomentata. Ecco, di solito quando dobbiamo dare una risposta, quando siamo sotto pressione, lì cominciamo a guardarci in giro e a vedere delle piccole cose che ci circondano e le interpretiamo, ovviamente. Tipo, vediamo la macchina, incontriamo una macchina che ha avuto un incidente, vedi, forse allora non è il caso, perché se ho visto quell'incidente lì potrebbe essere che quella cosa cui dico di sì o di no possa andare storto. 800240024 349-238-6666. Si parla di segni che sappiamo leggere oppure no, ma che abbiamo visto e che abbiamo decifrato come tali. Come ad esempio mi scrive Luisa, mi è capitato un anno fa, ho ricevuto un avviso di riscossione imposte per una casa nella quale ancora non vivevo. La casa era in costruzione da 8 anni, ma non era ancora pronta, o forse non eravamo pronti noi ad andarci a vivere. La cifra era talmente grande, parla della riscossione delle imposte ovviamente, e l'evento così traumatico per le mie finanze, che una settimana dopo ho stabilito una data. Ho deciso che l'ultima settimana del mese di agosto avremmo traslocato e saremmo andati a vivere definitivamente nella casa nuova. Quella terribile multa ha avuto il grande merito di darmi il segno che era ora di cambiare. Il 4 settembre 2010 abbiamo traslocato. Luisa, 800240024. Mi scrive Jorge, credo che si dica, che mi dice: Umberto Eco, nel suo romanzo Il pendolo di Foucault, dice che tutto può essere vero a causa di false premesse. La gente di solito pensa a vedere i segni e quindi controllare il futuro. Ma come dice il proverbio, se vuoi far ridere Dio, raccontagli i tuoi progetti. Mi spiace per il mio italiano, Jorge da Buenos Aires. Mi sembra un italiano che fila meglio del mio. Aurora. No, prima di Aurora, scusate, Elisa ormai abituè di Io sono qui. Elisa, ve la ricordate, quella del nostro, quella non punk, oddio, metallara, giusto. Elisa, più che di segni dovrei parlare di numeri. Quando mi soffermo per pura casualità a guardare un numero sullo scontrino, o il numero della sala del cinema, o del posto in cui sto seduta, o l'importo della benzina, ecco, sono sicura di vedere una previsione molto vicina di ciò che potrebbe accadere nelle prossime ore. E poi mi dà anche anche una spiegazione. Il 7, il 5 e il 2 solitamente vi portano buone cose. Il 4 e l'8 sono messaggeri di sventura. Per chi non la conoscesse, Elisa è un personaggio particolare. Andate a vederla sul profilo Matteo Caccia, io sono qui. Non è l'unica Elisa, però secondo me così a naso la riconoscete. 800240024 349-238-6666. Prima di cominciare a raccontarvi quali segni ho decifrato io e prima di sentire i vostri, vi devo ricordare che domani il programma Io Sono Qui è in onda dalla Beat di Milano, anzi di Ro Pero. Io credevo che si potesse venire e invece ho scoperto di no, Viola. Ho scoperto che è solo per addetti ai lavori. Quindi che cambia che io lo dico oppure no? Cambia poco, però probabilmente se domani sentite male è perché siamo alla Beat della fiera di Ro Milano, Pero, quello che sia, quello che è. Un altro messaggio, Donato, eccolo qua, questo è proprio il tipico esempio di segno letto. Carezzavo l'idea di comprare una casa a Praga, ma un giorno l'orologio in studio che segnava l'ora di Praga, che poi è la stessa di Roma, si è rotto. Ci ho rinunciato. Ora però, Donato, scusami, ma se segna l'ora di Roma e quindi l'ora italiana e segna pure quella di Praga, poteva pure essere che tu non dovevi comprare casa a Roma, giusto? E non a Praga. Però ognuno legge i segni a modo suo. 80024 0024 349 238 6666. E quindi è andata così. È andata che Giovanni mi ha chiesto di sostituirlo per un mese dietro al bancone della biblioteca rionale in cui lavora. Mezza giornata. A dare e riprendere libri, in una vecchia cascina, come dipendente comunale. Per coprirlo mentre lui va a Valencia a cercare di avere un figlio. Detta così non ci sarebbero controindicazioni, anzi, più che altro vantaggi. Per la comunità, che non perde un servizio. Per lui, che può occuparsi della procreazione. Per me, che mi faccio qualche lira in più con un secondo lavoro ragionevolmente comodo, e per l'istituzione, che non deve perdere risorse per cercare un sostituto. In fondo fare il bibliotecario rionale non è un lavoro per cui si necessita una preparazione particolare, e poi soprattutto, diciamo, i colleghi sono tutti d'accordo nel coprire lui e me, quindi sarebbero disponibili a darmi una mano per le situazioni più complicate, come la catalogazione o la gestione delle emergenze, ad esempio. E in più Giovanni non può più prendere ferie, non può più avere permessi speciali, però giustamente non vuole rinunciare al suo proposito e io sono davvero la sua ultima spiaggia, altrimenti dovrà lasciare il lavoro. Si tratta di 20 mezze giornate, che non è nemmeno una gran cosa. Eppure dentro di me c'è una vocina che mi dice che c'è qualcosa che non funziona, qualcosa che non va bene. Non so se è per il fatto che dovrebbe cominciare domani, oppure se perché di lavorare io non c'ho poi così tanta voglia. Non saprei, forse è un'altra cosa, forse è che è un rigurgito di legalità. Sì, lo so, è una malattia rara, però mi sa che ancora ne soffro un po'. Sono uno di quelli che se una cosa non si fa, sente che non la dovrebbe fare, anche lasciare la macchina in doppia fila per 5 minuti. Non si fa, è contro le regole, eppure lo fanno tutti, anche io lo faccio, ma ci sto male. Ecco cosa mi frena. È che si tratta di una cosa losca. Una cosa che se viene fuori un casino, io già mi vedo in galera. Che poi alla fine va così, no? Cioè, se Valentino Rossi evade le tasse per 20 miliardi, si indigna, se ne parla, e alla fine patteggia, paga la metà della somma, a rate e in 10 anni. Mentre se io non pago una multa, tra 6 mesi dovrò pagare il triplo, probabilmente. E se non lo faccio, mi mandano qualcuno a casa a prendermi la macchina. No, io queste cose non le faccio. Nemmeno per una buona causa. Ho letto troppo Kafka e ho letto troppo la Bibbia. Gli amici sono importanti e fare un favore significa anche rischiare qualcosa. In fondo cosa può succedere? Non farei nulla di male a sostituirmi a Giovanni dietro al bancone per un mese. Sì, certo, potrei sbagliare a rimettere a posto un libro magari, però non è che devo fare il chirurgo, voglio dire, non è che possa ammazzare involontariamente qualcuno. Poi la biblioteca è un bel posto dove passare un po' di tempo. Magari si conoscono persone interessanti o anche solamente guardo un po' di umanità. E poi ci sono i libri. Quando non ci sarà troppa gente potrò leggerli, ma anche solo averli intorno è rassicurante. Non si capisce perché la gente in salotto non mette la cristalleria, ma i libri. Se vuole sempre ovviamente che la casa sia accogliente, sia calda, perché attutiscono il rumore e perché danno l'idea di poterti fare compagnia in qualche modo, cosa che un bicchiere di boemia non potrà mai fare. Insomma, ieri pomeriggio ero molto indeciso. Io quando non so la risposta a una domanda oppure ho bisogno di conferme, cerco dei segni nel mondo che mi circonda. Tipo quando da bambino dicevo se segno questo gol l'Inter vince il campionato. Io lo segnavo quel gol lì, però l'Inter non vinceva mai, eppure ci ho sempre creduto io ai segni. E tutt'oggi li cerco. Allora ho fatto così. Mi sono messo a maneggiare il telefonino come se fosse un oracolo. Ho schiacciato dei tasti a caso e sono arrivati nel menu degli SMS. Nel telefono anteguerra che io ancora uso ci sono dei modelli di messaggi che uno può inviare senza doverli scrivere, sono lì già pronti, messi lì per facilitarti. Ho fatto così, li ho letti in fila e mi faceva un po' sorridere, ma diceva qualcosa, la lista era questa qui. Chiama. Sono a casa, chiamami. Sono in ufficio, chiamami. Sono in riunione, chiamami alle. La riunione è annullata, sono in ritardo, arriverò alle. Ci vediamo alle. Mi dispiace non poterti aiutare. Ora, a parte il fatto che sono morto da ridere a immaginare il tizio che ha scelto quali potevano essere i modelli di SMS più usati. Al di là di questo, io ho preso l'ultimo SMS. Mi dispiace non poterti aiutare come un chiaro segno. Io, Giovanni, non lo potevo aiutare. L'aveva detto il mio cellulare. In effetti un po' mi dispiaceva avere scoperto ciò che il destino aveva in serbo per me. Mi dispiaceva perché Giovanni avrebbe così perso il suo lavoro, probabilmente, o altrimenti avrebbe perso suo figlio, perché io non avrei potuto avere qualche lira in più e passare un mesetto in biblioteca. Insomma, in generale mi dispiaceva. Ma allora, se mi dispiaceva così tanto, perché dovevo dire di no? Mi sono detto che forse i segni sono da interpretare, come il modello degli SMS, che era lì perché io lo leggessi e mi accorgessi che era una vaccata. E che invece gli amici vanno aiutati, e non c'è legge che tenga, e non facevamo male a nessuno. E allora sì, Giovanni, fai una cosa, vai a Valencia e riempi il mondo di altri bimbi e altre bocche da sfamare. Hai libri qui? Ci penso io. Ero convinto. L'ho chiamato e gli ho dato il mio responso. Giovanni era felice, e a me piace in fondo far felice la gente. Mi ha detto così, fai così, vieni domani mattina alle 8, perché gli uffici aprono alle 9, ma così ci facciamo due chiacchiere prima e ti spiego le cose più importanti. Vedrai. Sarà facilissimo. Ecco, ammetto che il fatto di svegliarsi alle 7 io non l'avevo considerato, ma parola non torna indietro, e quindi biblioteca sia. Sono le 16.22, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. E intanto qua al 349-238-6666 si parla di segni e si scrive anche di segni. E Mario è il più lapidario perché mi scrive: cercare segni in quel che ci circonda vuol dire credere ancora che il mondo ci voglia bene. Questa è una lettura, Mario, che però un pochettino mi immalinconisce, devo dirti la verità, perché non che io creda che il mondo mi voglia bene, però forse speriamo sempre che il mondo ci somigli più di quanto in realtà non ci somiglia, e quindi forse hai ragione tu. Niente, quindi, GR, borsa! Pietro si è preoccupato. Ad una cena di lavoro ho semplicemente incrociato lo sguardo di una collega, ho capito che la storia con la mia fidanzata era finita. Così è stato, Leonardo, però secondo me quello non è un segno, Leonardo, è semplicemente che te ne accorgi. Ciao Matteo, sono Reste, a me una volta sul mio cellulare, per via di un virus, mi si cancellarono tutti i messaggi della ragazza con la quale stavo. In quel momento non mi è dispiaciuto e ho iniziato a riflettere e la storia è finita poco dopo. Anche questo non è esattamente la stessa cosa, perché tu capisci che c'è qualcosa che non va per il fatto che non te ne frega. No, qui è proprio che tu vedi una cosa e hai come un'illuminazione. È come ad esempio Alberto da Pavia che stava giocando a basket e semplicemente per un piccolo dettaglio ha deciso che non doveva fare quella scelta che aveva in mente di fare. Pronto Alberto? Sì, buongiorno. Ciao, buongiorno, come stai? Tutto bene, tutto bene. Allora, tu volevi fare il medico. Pronto, Alberto? Vuole fare il medico, però mi sa che dovrebbe comprarsi un cellulare nuovo, perché altrimenti non riusciamo a parlare. Allora cerchiamo di ricontattarlo. Intanto vi racconto. Eccolo qua. Cesare mi scrive: centrato un palo nel parcheggio della discoteca. Segnale che era ora di mettere la testa a posto. O semplicemente di smetterla di riempirti di alcolici e di qualsiasi sostanza tutta la sera. Mio marito ha perso l'anello nuziale il quarto giorno del matrimonio, eppure siamo felicemente sposati da 15 anni. Elisa di Treviso, bravissima, guarda, perché è proprio questo. Alcuni li leggono come dei segni e altri semplicemente no. Ho acceso una candela in chiesa come buon auspicio per una storia appena nata, ma la candela si è spenta subito, come la mia storia. Ci abbiamo ancora, siamo ritornati da Alberto. Pronto Alberto? Sì, scusate, ma stavo transitando sul ponte della Becca e si prende veramente male. Guarda, già per il fatto di aver detto stavo transitando sul ponte della Becca, tu per me hai vinto. Non c'è niente da vincere, Alberto, però ci sei? Sì, ci sono, vi sento. Raccontami che cosa stai facendo, che cosa avresti voluto fare e cosa hai letto come segno. Allora, io da tutta la vita avevo il sogno, ma anche la vocazione, diciamo, di voler fare il medico. Sì. E durante una partita di basket in tenera età vidi un compagno di squadra che malauguratamente perse un dente, gli cadde un dente. Ma per una pallonata? Ah, per uno scontro. Ah, lo scontro capita, un gioco maschio capita. No, e... hai detto un gioco maschio, ma nemmeno più a che tempo di sport si usa più un gioco maschio, oppure non è uno sport per femminucce. Io sono figlio del campetto e fallo se sanguina, quindi Ok. Che è un gioco maschio. Comunque... questo ragazzo perse un dente, io avrei dovuto, diciamo per microetica, intervenire e invece mi spaventai tantissimo e quello non fu un buon segno, così abbandonai la carriera medica e decisi di fare l'ingegnere, così nessun tipo di sangue avrebbe dovuto intersecarsi con la mia vita. Senti, che ingegnere sei, Alberto? Elettronico. Da quanto tempo? Da 4 anni. E che lavoro fai adesso? Faccio un altro tipo di ingegneria perché lavoro nel petrolio, però sicuramente non faccio il medico. Non quello mi è sembrato lampante e un dente ha segnato la tua vita. Però vorrei capire che cosa fai nel petrolio, perdonami la morbosità. Lavoro in una multinazionale che progetta valvole, che progetta condotti, oleodotti. Che grande fascino il mondo dell'ingegneria. Ah, guarda, fantastico. Gli oleodotti racchiudono veramente un grande fascino. Va bene, Alberto, ti ringrazio moltissimo, buona giornata. Buona giornata a voi. Ciao, alla prossima. Ciao. Marianna non l'ha letto, cioè non è ancora successo nulla, però ha questo panico. Ho aiutato mia sorella a traslocare lavoro in una nuova città. All'arrivo ho visto un ragazzo sul marciapiede che vomitava. L'ho letto come segno negativo, ma spero di no, per mia sorella, per il suo nuovo lavoro e per la sua nuova vita. Incrociamo le dita, Marianna. Io spero anche per il ragazzo, tutto sommato, che magari è quello che stava peggio di tutte. Chi invece è riuscito a leggere un segno molto bene, la nostra Claudia, che qualche tempo fa, esattamente nel 2006, lesse tutto il casino che era accaduto nel calcio italiano come un buon segno per l'Italia, per la nazionale italiana, così me l'ha raccontata l'altro giorno, perché nell'82, giusto Claudia, era successa una cosa simile nel campionato, c'era qualcosa di storto, non mi ricordo bene, però insomma, male il campionato, bene la nazionale. Lei ha letto quella roba lì di Calciopoli come un punto a favore della nazionale, ha puntato qualcosa tipo 50 euro, ne ha vinti 1200. Questo si chiama leggere i segni. Ora la borsa e poi io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Andiamo pure. Grazie Sebastiano. Nella foto di oggi siamo in mezzo alla nebbia, in mezzo alle nuvole. Siamo in montagna, però è una foto strana perché per come è stata scattata e per il grigio che c'è nel cielo e per il grigio che c'è nella foschia in mezzo a questa valle, potrebbe anche essere guardata al contrario e non cambierebbe nulla praticamente. Veramente non si capisce, potrebbe addirittura essere Città del Messico e quella che si vede può essere foschia, potrebbe essere invece magari Milano il giorno del blocco del traffico visto dall'altipiano di Lecco. Massimo Sarchi, 35 anni, Pistoia, 67 metri sopra il livello del mare, un venerdì di dicembre sotto una insolita neve. La foto è stata scattata da Corbezzi, 400 metri di altitudine dove io vivo e raccolgo le mie forze. Io sono qui.

vado in barca lo stesso, ma non rimango vicino a casa. Ok, Monica, senti, ti ringrazio moltissimo. E ce l'hai ancora quella fotografia del giornale? Sì, ce l'ho ancora, ce l'hanno sempre i miei genitori. Ogni volta che vado a casa loro torno a guardarmela. Grazie mille, Monica, buona giornata. Anche a te. Ciao, alla prossima. Andiamo da Tommaso, a Prato. Pronto, Tommaso? Sì, ciao, buonasera. Ciao, buonasera a te. Raccontami invece del tuo piccolo segno, che poi non è stato così piccolo, tutto sommato. Sì, no, in effetti, poi... come ho detto prima, erano due disegni, nel senso, uno mi è capitato quando ero in quinta superiore. Purtroppo un mio amico era in coma dopo un incidente con l'auto. Sì. E io stavo facendo una gara di salto in alto. Sì. Una gara di salto in alto, un torneo cittadino. E arrivato da ultimo, ero rimasto l'ultimo a saltare, il record era 1,73. Ormai ero da solo, i concorrenti non c'erano più perché tutti gli altri avevano sbagliato tre volte, quindi dissi, se ce la faccio io ce la deve fare anche lui. In effetti ora il babbo è una bambina, quindi... Quindi diciamo quel segno è a metà tra un segno e un gesto scaramantico, però ha funzionato, ha funzionato. Tommaso, ti ringrazio molto, buona giornata. Grazie a voi, ciao. Ciao, alla prossima. Qualcuno mi chiede, a proposito evidentemente quando uno parla, il gol sbagliato da Eto'o è un segno che lo scudetto lo vince il Milan? Poi andiamo a un'altra telefonata invece, perché visto che si parlava di quel povero ragazzo che vomitava, è arrivato un altro messaggio. Appena conosciuto una ragazza, un tipo passando vicino ha vomitato. Sono sposato con quella ragazza da 10 anni e abbiamo un bimbo di 5. Ciao Christian. Invece prima Marianna mi diceva: spero che aver visto uno che vomitava vicino alla casa di mia sorella non sia un brutto segno per lei. Pronto Marianna? Sì, ciao Matteo. Senti, di che casa parliamo, di che nuova vita di tua sorella parliamo, per capire se quel segno è un segno? Cioè, bello per lei perché ha trovato un nuovo lavoro, però sai, una scena del genere mi ha creato un po' di timore. Cioè, ma ti ha veramente turbato Marianna questa cosa? Sì, sì, perché poi le persone intorno, nessuno si occupava di questo ragazzo. E ho dovuto chiamare io l'ambulanza. Dove è accaduta questa cosa e che lavoro e cosa ha trovato tua sorella? La città è Ro. Ro, ah ok, quindi dove domani siamo con la beat tra l'altro. Scusa, esatto. Perché però, perdonami, perché tua sorella è andata a vivere a Ro? Per lavoro, perché lei ha trovato lavoro lì a Milano. Beh, ma poteva stare magari a Milano e andare a Ro dopo, no? No, voleva proprio stare a Ro, lei ci teneva. Proprio. È stata la sua scelta e sai, l'abbiamo solo appoggiata. Certo. E... Poi questa brutta scena del ragazzo che vomitava, Marianna. Magari... lei ha chiuso col suo uomo e quindi sai, ho detto speriamo bene. In più quello che vomitava, niente, magari aveva solo fatto congestione, ha avuto una congestione. Marianna, ti ringrazio molto, buona giornata. Grazie a te, complimenti. Ciao, grazie. Ciao. Un segno, sono in macchina e sto studiando i tarocchi, improvvisamente sento di accendere la radio e sento te che parli di segni. Sarà un segno, Gaetano da Palermo? Boh, anche a me questo mi sembra un triplo salto mortale. Grazie a quelli che hanno telefonato e che non riusciamo a sentire. Prima di chiudere oggi voglio continuare la storia, che è la storia di Luca. Moltissimi mi chiedono se la storia di Luca è una storia vera. Ora, io non lo so se questa storia è vera. So però che lui, praticamente una o due volte a settimana, mi manda una mail e questo è il quinto capitolo della sua storia. Caro Matteo, continuo a raccontarti la mia storia. Ieri in ufficio arriva una telefonata. È tardi, di solito nessun cliente chiama a quest'ora. È mio padre. Luca, mi è giunta notizia che Angelo è morto. Ma è impossibile, gli ho detto, l'ho appena visto. Ecco, anche questa è una frase che ricorre spesso. L'ho appena visto, ci siamo appena incrociati, gli ho parlato proprio l'altro ieri. Esco dall'ufficio, prendo la macchina e vado verso casa sua. Non parlo direttamente con Angelo da una vita. Amico di famiglia, ha sempre gravitato intorno a noi. I miei andavano in vacanza, lui con la sua famiglia era presente. I miei andavano per un fine settimana via, Angelo e moglie erano con loro. È vero che dopo, per anni, non si è più visto. Tutto coincidente con un calo delle nostre finanze, ma non importa, Angelo era un amico. Ai tempi sua moglie era bellissima. Mi restava impresso il suo sorriso. Diciamo che per un ragazzino della mia età, a 15 anni, lei era un sogno. Ecco, oggi io sono qui. Luca. Grazie a Luca, grazie però anche a Viola Bottoni, a Pietro Lacorte e a Stefano D'Andrea. Ci è arrivato un ultimo messaggio che dice: ieri sera il dottore mi ha prescritto degli antibiotici, nonostante già da una settimana io faccia uso di uno spray che a suo dire è miracoloso. Sono uscita delusa dall'ambulatorio e ho pensato che questa sfortuna dovesse sicuramente essere compensata. Ho comprato un Turista per Sempre, che credo sia un gratta e vinci, e ho vinto 5 euro. Voilà, domani sono alla Beat, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?